Terza parte di Rock Legends, come sempre Gianluca al microfono e lo ricordo, ospiti Metodica. Ora ascolteremo i brani del loro disco Searching for Reflections, come ad esempio il primo. Titolo? Il titolo è Neon ed è il brano che apre il disco. Brano registrato, è stato il primo ad essere registrato. E infatti è il primo anche che apre il disco. La vostra esperienza in sala di registrazioni e quali le idee musicali a supporto di questo disco? So che per esempio il mastering è made in USA. Sì, il disco è stato masterizzato agli Sterling Sound Studios di New York. È stato un aggancio che abbiamo avuto grazie a Fabio Serra, il nostro coproduttore. Sì, dove abbiamo registrato il disco all'Opal Arts Studio. L'abbiamo registrato da Fabio Serra, appunto, che ha fatto anche da coproduttore alle registrazioni, al disco. È stata una bella collaborazione. Sì, ci siamo divertiti molto perché è stato molto formativo, molto un'esperienza nuovissima per noi registrare in studio un disco vero. Quindi ci è piaciuto molto, è stata veramente una cosa anche nuova, molto, molto bella, molto bella. Qual è invece la prossima canzone? Il prossimo brano si intitola Ghosts ed è il secondo brano del disco. Nuovo in studio con i Metodica, il disco è uscito da poco, spero ci siano già state delle recensioni, quali le più lusinghiere? Allora, abbiamo avuto una recensione dal sito hardandheavy.org di Beppe Diana, che ha parlato benissimo del disco, veramente lusinghiera come recensione. E poi su Classics una recensione di Gianni Della Cioppa, anche lui ha parlato molto bene del disco, per cui al momento va tutto bene, siamo molto contenti. Salutiamo magari anche Gianni Della Cioppa. Esatto, che ci è molto vicino in questo periodo molto importante per noi. Direi. Il prossimo brano per i nostri ascoltatori. Il prossimo brano si intitola Presentiments. Torniamo tra poco per la quarta parte di Rock Legends con i Metodica. Voi restate sempre su Radio RCS. Has come running in the air. Take a look outside, I love.